Investire informati. E allora, una forma assicurativa come investimento è la soluzione giusta in questo momento per proteggere il nostro risparmio? Che cosa offre l'industria? Avete sentito Sonia che ci ha raccontato che ha ricevuto due offerte da due banche, peraltro non le ho fatto indicare i nomi delle due banche, ma sono le due più grandi banche italiane ad averle fatto questa proposta. Come scegliere, visto che anche gli strumenti assicurativi sono tanti, sono offerti non solo delle assicurazioni, ma anche proprio dall'industria bancaria, confrontarli non è facile. Allora, se anche voi avete questi dubbi, condivideteli con noi all'800 24 0024, raccontateci proprio se avete ricevuto una proposta in banca di questo tipo, che caratteristiche ha il prodotto che vi è stato proposto. Buongiorno e benvenuta Federica Pezzatti, Plus 24 del Sole 24 Ore, eccoci. Buongiorno a tutti. Ciao Federica, peraltro è anche coordinatrice, lo voglio ricordare, di questo lavorone, la rubrica settimanale La Posta del Risparmiatore per Plus 24, quindi adesso girerò anche a te un po' di mail che ci arrivano, Federica, così almeno condividiamo questo lavoro. Dormi preoccupata. Saluto e ringrazio anche per essere con noi Giuseppe Romano, responsabile dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultic. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, Federica, ti chiedo subito un commento sulla richiesta di questa ascoltatrice, no? Perché io immagino che siano anche molti lettori di Plus 24 che chiedano un orientamento in questo senso. La banca, il mio consulente finanziario, mi propone un'assicurazione invece di azioni, obbligazioni, conti di deposito, fondi di investimento. Allora, questo è quanto passa il convento in questo momento. Come mai c'è un ritorno dell'assicurazione come formula di investimento per i risparmiatori in questo momento, appunto? Ma bisogna premettere innanzitutto che le polizze le hanno sempre un po' proposte. In questo momento diciamo che ovviamente con i tassi negativi e con anche l'imposta di bollo che comunque grava sugli investimenti obbligazionari anche quando sono in negativo, la domanda ha più successo, perché queste polizze appunto prevedono la garanzia del capitale al netto ovviamente dei costi che non sono, che talvolta incidono anche molto, per cui la banca propone un prodotto sicuro, sicuro però solo se è una polizza di ramo primo, perché stiamo molto attenti, perché in questo periodo le compagnie assicurative hanno interesse invece a proporre prodotti multiramo in quanto sono meno costosi da mantenere, diciamo. Mm-hmm. Ovviamente la compagnia quando offre un prodotto garantito si espone anche a un certo rischio in quanto deve avere le condizioni per prestare questa garanzia, e se i tassi continuano ad essere così bassi fanno fatica a garantire questi hanno il dovere di farlo, per cui il risparmiatore non incappa in nessuna penalizzazione futura o possibile, però per problemi anche di solidità patrimoniale, di solvency eccetera, le polizze ramo primo sono sostanzialmente sconvenienti da proporre per la compagnia. Viceversa, possono avere un senso proprio perché le ramo primo, quindi le polizze rivalutabili, e state molto attenti a questo termine, hanno l'esenzione dalla tassa di bollo, che comunque invece affligge tutti gli altri tipi di investimento, dai fondi alle obbligazioni. Ogni anno comunque sia risultato lo 0,2% viene trattenuto, e questo è un onere non da poco. Inoltre hanno proprio la garanzia della salvaguardia del capitale e dovrebbero anche girare ogni anno un rendimento che dipende dall'andamento di una gestione separata. In questi giorni stanno uscendo i rendimenti del 2015 e alcuni gruppi riescono a garantire ancora rendimenti abbastanza adeguati, che ovviamente dovranno essere... dovremo togliere naturalmente il trattenuto dalla compagnia, che si aggira intorno all'1,5-2% anche certe volte all'anno, e quindi chiaramente se ho delle gestioni separate che rendono oltre il 4 ho un discreto margine ancora, perché con tassi a zero siamo anche intorno al 2%-2,5%. Se invece ho delle gestioni magari nuove, bancarie, che mi rendono il 3% al netto dei costi, siamo intorno all'1%. Ecco, quindi stiamo sempre parlando di tassi molto contenuti, comunque molto contenuti, bisogna vedere poi con che cosa si fa il confronto, naturalmente soprattutto quali sono le nostre aspettative, i nostri obiettivi. Certamente. Federica ci ha già introdotto alcuni concetti rami. Chiave, intanto il tema dei rami. 1, 2, 3, non abbiamo introdotto il mondo vegetale, ma naturalmente è una specifica classificazione delle assicurazioni sulla quale adesso torneremo, proprio per spiegare bene le varie tipologie. Abbiamo parlato di gestioni separate, poi andremo anche a raccontare bene nel dettaglio in che cosa consiste questo, tra virgolette, istituto che ogni assicurazione ha, la trattenuta della compagnia, quindi il famoso caricamento, che è l'onere che naturalmente deve essere versato e pagato, e che qualche volta in realtà rappresenta una grande sorpresa per molti assicurati, perché non capisce bene perché magari dopo il primo anno di versamento di un premio va a vedere il bilancio di questa, di questo primo anno di versamenti, e vede che non c'è la cifra che ci si aspettava proprio perché l'assicurazione ha fatto questa trattenuta. Adesso ve lo spieghiamo anche bene questo passaggio, ma volevo sentire un commento anche da parte di Giuseppe Romano, sempre in relazione alla domanda che ha fatto l'ascoltatrice, ma poi soprattutto le voglio chiedere, Romano, visto che da qualche anno c'è questo mondo della banca insurance, abbiamo imparato che anche andando allo sportello bancario possiamo sottoscrivere un'assicurazione. È meglio una polizza assicurativa sottoscritta direttamente con la compagnia di assicurazione o meglio quella confezionata e distribuita in banca? È rilevante questo aspetto? Allora, ascoltatrice, in effetti pone due quesiti fondamentali che meritano entrambi una risposta. Uno è questo qui ultimo, cioè la questione del canale di distribuzione dei prodotti, e l'altro è la protezione del capitale, del patrimonio. Quindi questi sono due aspetti fondamentali. Per quanto riguarda la protezione del patrimonio, bisogna fare una distinzione. Quindi io, dice l'ascoltatrice, voglio fare un investimento, una polizza per proteggere il mio patrimonio, il mio capitale, ed è una cosa sacrosanta che vogliono praticamente quasi tutti. Allora, qui bisogna distinguere una cosa, due tipologie di rischi nel concetto della protezione: il rischio di mercato e il rischio di solidità dell'emittente, di chi emette questa obbligazione, ossia questa polizza. Allora, esatto, chiamiamola polizza, non confondiamo magari, anche se forse nel gergo finanziario può essere anche associabile ad un'obbligazione, Romano, però proprio per non confondere, certo, gli ascoltatori, certo. Continuiamo a parlare di strumento assicurativo. Sì. Allora, quando guardi il rischio di mercato, devo andare a capire cosa io sto comprando di fatti, perché in effetti che cos'è una gestione separata di ramo 1 assicurativa? È un portafoglio di obbligazioni, tendenzialmente, prevalentemente titoli di Stato e obbligazioni corporate. Questo è, quindi io sto comprando un portafoglio di titoli di Stati, di titoli di Stato e di obbligazioni corporate. Questo è il mio, chiamiamolo, collaterale, la mia garanzia. Quindi il mio rischio di mercato è il rischio insito nell'acquisto di un portafoglio di obbligazioni di fatti. In più c'è anche una doppia garanzia, cioè c'è la garanzia del rendimento, ossia dell'investimento in questa obbligazione, ma c'è anche una garanzia implicita della compagnia che garantisce su questo tipo di investimento. Quindi il rischio di mercato è il rischio della compagnia che è proprietaria della gestione separata, e una doppia garanzia negli investimenti, nelle singole obbligazioni che sono all'interno della gestione separata. Ecco, volevo un attimo interromperla, Romano, per fare una prima osservazione con Federica Pezzatti. Parlava di rischio dell'emittente, Giuseppe Romano, di rischio della compagnia. In realtà in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, abbiamo parlato di grandissima fragilità del mondo bancario. Tema assicurativo non è stato sollevato da nessuno, quindi quantomeno che ci possano rendere più o meno quello che ci aspettiamo, che possano essere degli investimenti più o meno remunerativi per noi, diciamo che il rischio emittente in Italia, almeno nel mondo assicurativo, non si è palesato da nessuna parte. Sì, parliamo di rischio controparte, perché però effettivamente, come diceva Giuseppe, esiste, nel senso che alcune compagnie sono finite non nel ramo vita. Direi che è un caso remoto. Comunque faccio notare che le assicurazioni, le compagnie assicurative, a differenza delle banche, non rientrano nel famoso bail-in, per cui il salvataggio interno non è una problematica che riguarda i risparmiatori, tanto più forse Giuseppe, che è un esperto, ce lo può confermare. Mi pare che le gestioni separate, in caso di fallimento della compagnia, abbiano comunque una tutela molto forte, per cui di fatto esiste comunque essendo un po' di problema. Essendo una cassaforte investita sui mercati, viceversa, anche se come diceva Giuseppe, non si corre il rischio che adesso, investendo vendendo in un BTP, oltre ad avere zero, tu corri il rischio che se lo devi vendere prima della scadenza puoi trovarti con un prezzo molto svalutato, soprattutto se fra qualche anno finalmente i tassi ricominceranno a riprendersi. Viceversa, parcheggiandoti su una polizza, tu compri di fatto, come diceva lui, un portafoglio obbligazionario, ma lo compri come se fosse 100, insomma non è che ti fanno tu potresti subire una perdita, la perdita forse la subirebbe poi la compagnia che invece ti garantisce comunque la restituzione del capitale, quindi di fatto si entra sui BTP senza correre i rischi che si hanno investendovi direttamente. Allora, quindi però anche queste ramo primo, appunto le rivalutabili, che sono le più semplici anche da comprendere, in realtà hanno la gestione separata che investe sui mercati finanziari, se andiamo a vedere sintetizzando molto. Poi c'è proprio il mondo invece delle index linked, delle unit linked e anche delle multiramo, non so se sono comprese queste. Le multiramo sono praticamente delle polizze che ti consentono di associare il ramo primo al ramo terzo. Allora ci fermiamo, Federica, perché già abbiamo mandato con tutti questi rami qua. La vita assicurativa è piena di rami. Allora, intanto allora vi dico che, così articolando ancora un po' la nostra vegetazione, direi che andiamo a vedere cosa succede in borsa. Non mi viene nessun parallelo vegetale da fare, vi dico solo che oggi vedo tutto rosso pomodoro, no, tutto verde anzi, perché è tutto positivo, no, rosso pomodoro. Cuore e denari. Get back. Eccoci ritornati, eccoci ritrovati ad Investire Informati. Il tema di oggi sono le assicurazioni come forma di investimento, soprattutto in questa fase di grande volatilità, come forma di protezione del proprio capitale e del proprio risparmio. È una buona idea? Ce lo ha chiesto una nostra ascoltatrice. Noi abbiamo subito pensato che fosse un tema di interesse generale, a giudicare anche dalle telefonate che stanno arrivando ci sembra di sì, per cui eccoci qui con i nostri ospiti a provare a spiegare le caratteristiche dei prodotti che l'industria offre ora. Vale davvero la pena puntare sull'assicurazione con la convinzione che il nostro risparmio sia al sicuro? Ditecelo voi all'800 24 00 24. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche introdotto un concetto sul quale tra poco vi faremo il nostro domandone, per cui mi raccomando, attenzione, perché siamo pronti con l'interrogazione. Torniamo alle nostre polizze. Allora, abbiamo detto che le polizze vita come forma di investimento possono essere classificate come polizze di ramo primo, secondo, terzo, quarto, quinto, le multiramo, insomma una differenziazione abbastanza articolata per descrivere un'industria che ci racconta di polizze che vanno da una tipologia abbastanza semplice. Le ramo primo, ci raccontava Federica Pezzatti, hanno un rendimento, proteggono il capitale, hanno un rendimento agganciato ad una gestione separata, che però è investita sui mercati, perché generalmente è investita su titoli obbligazionari, naturalmente, e titoli di Stato fondamentalmente, che in questo momento hanno rendimenti, come abbiamo più volte raccontato, a zero e sotto zero. Quindi com'è possibile, peraltro, Federica, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, che possano garantire il capitale queste polizze e che l'industria non ci perda, sì, che la compagnia non ci perda? È un concetto facile da spiegare, nel senso che mentre tu compri comprando un titolo, un fondo, tu lo compri al valore di mercato e lo vendi al valore di mercato, nelle gestioni separate la contabilità è a costo storico, per cui magari loro hanno ancora dei vecchi BTP con cedola 5%, hanno delle plusvalenze e le realizzano. Quindi il risultato della gestione separata è anestetizzato dall'andamento dei mercati, capisci? Cioè il tuo BTP continua, non può subire un deprezzamento per effetto di una svalutazione dei mercati. Quindi non, la gestione separata il suo risultato lo ottiene tramite il disinvestimento dei titoli che è in portafoglio e tramite l'incasso delle cedole. Quindi praticamente non corri il rischio che dia un rendimento negativo. Questo è molto importante da capire. Era per quello che dicevo, che non hai, in questo momento, ad esempio, molti consulenti stanno indicando come modalità operativa di vendere i BTP su cui si hanno delle grosse plusvalenze. Naturalmente non è una mia valutazione, perché non è un... Però proprio perché magari adesso alcuni BTP valgono anche sopra 100, 112, magari adesso Romano sarà forse più preciso di me. Però man mano che si avvicina la scadenza questo prezzo scenderà. anche per effetto magari di un rialzo dei tassi in futuro. Adesso sentiamo Giuseppe Romano, anche perché ci stanno segnalando alcuni ascoltatori, addirittura qualche promotore finanziario, proprio di spiegare bene il concetto della gestione separata, perché non è semplice. Per cui grazie per queste precisazioni a Federica. Adesso ritorniamo a Giuseppe Romano, ma ci ritorno da lei, Romano, anche con qualche domanda di qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Mi incuriosisce proprio la scelta che ha fatto Eugenio da Bergamo. Eugenio, benvenuto. Sì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, speriamo di guadagnarceli. Sarò breve. Allora, vedendo appunto quello che succede sui mercati, parlando col consulente, abbiamo deciso di fare un investimento in polizze, ma in franchi svizzeri. E ci ho guadagnato perché quando si è svincolato il franco svizzero dal cambio europeo, l'anno scorso c'è stato un aumento del 20%. E comunque anche adesso che si è ridotto un pochino, c'è sempre comunque un margine di guadagno. È stata però una scommessa, perché lei non era consapevole. È il mercato la Svizzera che è molto più stabile, diciamo, del mercato europeo. Allora Eugenio, vabbè, ognuno la pensa come vuole. È anche vero che tutti coloro che pensavano di aver fatto l'affarone qualche anno fa sottoscrivendo il mutuo in franchi svizzeri con una grande banca che adesso sta chiudendo tutti i suoi sportelli sul territorio in Italia, adesso si ritrova, peraltro sto anche meditando di fare una puntata su quel caso perché è drammatico per molte persone. Allora Giuseppe Romano, adesso andremo ad introdurre anche il tema più complicato delle unit linked, delle index linked, cioè quelle polizze vita il cui rendimento è agganciato a strumento finanziario complesso, come lo erano per esempio quelle polizze agganciate a Lehman Brothers qualche anno fa, e sappiamo anche quel caso come è finito. Cosa ne pensa della scelta di Eugenio? Allora, sicuramente rispetto all'ascoltatrice precedente, qui siamo su una scelta diversa, siamo su strumenti finanziari a rischio, quindi dove non c'è assolutamente garanzia del capitale, perché le unit linked investono in fondi, i quali a loro volta possono investire non solo in obbligazioni, possono investire nelle valute, come in questo caso, possono investire nell'azionario anche mondiale, e quindi avere vari rischi anche di cambio, non solo dell'andamento dei mercati finanziari. Quindi stiamo parlando di due strutture di prodotto completamente diverso. Quindi mentre la gestione separata, io ho questo capitale garantito, è una rivalutazione, un consolidamento del rendimento, perché il rendimento realizzato in un anno viene consolidato e quindi non può mai essere tolto successivamente rispetto ad esempio all'acquisto di un'obbligazione, perché come si diceva anche Federica prima, non c'è un'oscillazione dei prezzi dei titoli all'interno, perché vengono tutti contabilizzati al costo storico e tendenzialmente vengono portati tutti a scadenza. Quindi questo problema lì non c'è, c'è un consolidamento del rendimento, e quindi come avere quasi un conto corrente che giorno per giorno mi matura un po' di interesse. Ovviamente in quel caso bisogna solo stare attenti ai costi, perché se i costi sono superiori al rendimento, ovviamente il capitale al netto dei premi, i premi netti investiti, quindi al netto dei costi, sono garantiti, ma non quello lordo, cioè al lordo dei caricamenti. Mentre qui stiamo parlando di qualsiasi tipo di investimento con una scatola assicurativa, cioè io che posso comprare direttamente i franchi svizzeri, direttamente l'azionario, o comprando direttamente le azioni o i franchi, o comprando un fondo che a sua volta ha le azioni dentro, oppure prendo una scatola come una matriosca, che è una scatola che chiamo unit linked, cioè linkata, cioè collegata a fondi, quali a loro volta investono in azioni, in obbligazioni, in valute. Quindi in questo caso con una matriosca che ho una scatola più grande che ha dei costi, poi ce n'è, apro questa scatola, ce ne sono scatole più piccole che sono ad esempio i fondi comuni, ok, li apro e all'interno possono stare ancora altri fondi comuni di investimento e singole azioni, singole obbligazioni, quindi io ho tutto un insieme di passaggi per cui ho un insieme di costi che si aggiungono. Quindi esatto, ci ha elencato tutti i costi, esatto, ma il vantaggio secondo lei di aver fatto un'operazione di questo tipo per Eugenio qual è? Di aver avuto un buon rendimento che si è ottenuto con questa operazione, che era comunque del tutto disattesa, perché quando si è sganciato, Federica, il franco forse il letto il ascoltatore lo stesso, speriamo che leggano anche l'ascoltatore probabilmente ha comprato una gestione separata in franchi svizzeri, ne esistono anche in dollari, e dollari franchi svizzeri, perché poi c'erano anche in ECU, ma adesso l'ECU non c'è più, quindi sono polizze, probabilmente è una gestione separata, penso, mi auguro per lui, in franchi svizzeri, quindi al rendimento della componente della gestione separata si aggiunge anche l'effetto di cambio, per cui aspetterei a cantare vittoria, nel senso che magari potrebbe essere che il franco svizzero possa anche scendere, non esatto. Sarà, penso che non sia un'ipotesi. E poi plausibile. Magari quando il rendimento di questa polizza non sarà più soddisfacente, magari lui vorrà magari riscattarla prima. Attenzione, perché gli potrebbe venire fuori anche un'altra sorpresina, che è quella del caricamento applicato a chi vuole esercitare un riscatto anticipato. È possibile? Sì, ma non penso che con i vantaggi valutari che ha avuto lui, probabilmente adesso farebbe bene, a mio giudizio, a consolidare, nel senso che se ha già guadagnato il franco svizzero il 20% o quant'è. O decide di tenerla per sicurezza, perché non si sa mai, oppure può anche pensare di consolidare, se no la tiene fino alla scadenza. Allora, insomma, altro che polizza vita come porto sicuro, vedo che qua è un mondo ben complicato anche questo. E allora adesso, senti, io so che ho il traffico, però in realtà mi rubo altri 30 secondi, perché voglio anticipare il domandone. Guarda, se mandiamo in onda il nostro dischia tutto. Sì, in realtà forse non l'abbiamo spiegato benissimo, ma siccome gli ascoltatori sono molto attenti avranno capito, anzi me lo voglio far spiegare da loro. Avete chiaro il concetto del caricamento sulla polizza assicurativa? Noi accettiamo risposte per aprire la nostra libreria all'800 24 00 24. Pensateci un attimo, intanto cominciate a confezionare la risposta per noi, e noi adesso possiamo tranquillamente andare a sentire il traffico. Cuore e denari. Che cos'è il caricamento sulle polizze assicurative? Spiegatecelo se volete all'800 24 00 24, il nostro domandone di oggi. Parliamo di assicurazioni come forma di investimento, il tema di oggi, di investire informati. Con noi Federica Pezzati di Plus 24 del Sole 24 Ore, Giuseppe Romano, responsabile dell'ufficio studi della società di consulenza indipendente Consultica. Allora Romano, solo per dovere di precisazione, noi prima abbiamo argomentato la questione del funzionamento del le gestioni separate, che in qualche modo ci danno il rendimento, chiamiamolo così, o la garanzia appunto della rivalutazione delle polizze assicurative di ramo primo. Abbiamo spiegato come riescono appunto a portare a casa il loro rendimento. Qualche ascoltatore ci segnala però di te anche che in realtà il consolidamento dei rendimenti, come spiegato appunto prima anche nella modalità in cui l'ha fatto Federica Pezzati, avviene solo con alcune compagnie, e molte le stanno anche chiudendo adesso, è corretto? Allora, oggi, in questi ultimi mesi, il mercato delle polizze ramo 1 è molto cambiato, perché il punto di fondo qual è? Che con questi rendimenti così bassi o addirittura negativi, tante gestioni separate stanno nel lungo periodo di che cosa consolidano? Per un semplice motivo, che chi già è dentro riesce ancora ad ottenere dei buoni rendimenti, perché ci sono i titoli, soprattutto i titoli di Stato, con cedole molto elevate. Certo. I nuovi ingressi invece annacquano il capitale, perché bisogna investire altra liquidità a tassi quasi zero negativo. Allora, diciamo che le gestioni separate, quelle più, chiamiamole, un pochino più serie, che vogliono proteggere di più gli investitori che sono già all'interno, stanno chiudendo i rubinetti, si dice, quindi evitano nuove sottoscrizioni, oppure le fanno fare a delle condizioni come queste, attualmente più peggiorative, quindi peggiorative. Senta Romano, quanto può durare una polizza di ramo primo? Andiamo proprio sulla rivalutabile più semplice, no? Io la sottoscrivo oggi, qual è? Ho un orizzonte temporale, ammettiamo appunto di 10 anni davanti a me, quanto devo accantonare secondo lei per avere una protezione del mio capitale adeguato, un rendimento soddisfacente, non perderci nulla? Cioè, andiamo proprio ad identificarci nel risparmiatore più che vuole essere più tranquillo possibile. Allora, secondo lei, insomma, come devo fare la mia scelta? Generalmente sono vita intera, quindi si estinguono con la morte del contraente. Però allo stesso momento la maggior parte delle polizze prevedono un'uscita, la possibilità di uscire tendenzialmente dopo 12 mesi, c'è anche chi prevede anche un'uscita prima, quindi l'uscita è molto breve. Il punto qual è? L'eventuale tunnel di uscita, cioè commissioni di uscita. ci sono delle polizze, ossia soprattutto in passate tendenzialmente non applicavano le commissioni di uscite, altri applicano dei tunnel di uscita tendenzialmente che vanno con un massimo da 3 a 5 anni, diciamo che dopo il quinto anno non ci sono nemmeno questi tunnel di uscita. Cos'è il tunnel di uscita? È un costo, è un onere che ti viene applicato dalla compagnia per scoraggiarti a uscire? Sì, è un caricamento di uscita, in uscita, quindi devo ricevere 100 meno 3 o 2% mi dai 98, ok? E questo soprattutto all'inizio, nei primi anni. È ovvio che se ho una polizza che non ho penale di uscita, posso uscire dopo 6 mesi o dopo un anno, io già alla fine del primo anno ho il mio rendimento, quindi è un po', diventa un po' come un conto corrente che viene regolarmente accreditato all'assicurato. Romano, come funziona? È proprio come se avesse una piccola cedola annuale, come se avesse un titolo di Stato? Quasi sempre c'è un accumulo, quindi viene accumulato e quindi il rendimento diventa capitale e c'è una rivalutazione. È ovvio che se l'ho fatta sotto forma di, ad esempio, di una polizza mista, cosiddette polizze miste, in cui c'è la gestione separata, c'è anche una componente rischio morte, quindi caso morte, e in cui i caricamenti sono molto alti, è ovvio che, e delle penali di uscita anche sono molto alte, la faccio per 15 anni, è ovvio che in quel caso con quei costi di caricamento, con quelle penali di uscita, e riuscirò a riprendere i miei soldi, anche considerando i rendimenti delle gestioni separate che sono abbastanza calanti, riprenderò i miei soldi dopo 15 anni. Quindi diventa un prodotto poco efficiente da questo punto di vista per il sottoscrittore. Ma qual è la forma assicurativa particolarmente efficiente? Adesso tu, Federica, che scandagli il mercato sempre molto attentamente, che cosa ci offre in questo momento l'industria, visto che comunque tutti gli strumenti di investimento veramente sono da prendere con le molle, perché fanno fatica a proteggere il capitale dei risparmiatori? Come abbiamo detto prima, praticamente si parte da una semplice rivalutabile, quindi una polizza di investimento puro, non mista, perché se no parliamo di altro, di protezione, che non è questo l'ambito. E dobbiamo fare attenzione quindi al rendimento della gestione separata, che è nel prospetto informativo addirittura confrontato col rendimento dei BTP e con l'inflazione. Ottimo. Per cui guardiamo quanto ha reso l'anno prima al netto dei costi, insomma. E in più guardiamo il costo percentuale medio annuo, che è un'altra informazione che c'è nella nota informativa e che ci fa capire quanto la compagnia trattiene in totale ogni anno dalla mia posizione. E quindi, se facciamo il confronto di questi due aspetti, impariamo a conoscere questo prodotto e anche a capire cosa possiamo guadagnare. In ogni caso, suggerisco assolutamente di evitare le polizze con un piano di versamento, perché certe volte, se non si riesce a mantenere almeno nei primi anni il versamento, quindi io mi impegno a versare, non so, 10.000 euro anche l'anno prossimo e l'anno dopo, ci sono alcune formule che penalizzano tantissimo se il piano si interrompe si può perdere anche un terzo di quanto si è investito. Quindi diciamo, mediamente è meglio fare il versamento iniziale, punto. In cui siccome questo signore non poteva più versare 10.000 euro anche negli anni successivi, si è trovato ad avere un terzo del capitale bruciato in un solo attimo, ecco. Quindi anche questi sono, bisogna stare proprio attenti e farsi guidare da una persona magari indipendente. Angela da Milano, l'abbiamo fatto aspettare tanto, molto velocemente, grazie. E dunque, buongiorno. Allora, io ho fatto un'assicurazione, adesso che voi avete spiegato ho capito benissimo. E dunque, da anni e anni avevo il conto, ero cliente di questa banca, tanto per non fare il nome Banca Intesa, la mia mamma, dopo la sua morte, io sono una persona anziana, ho spiegato benissimo che avevo bisogno di cedole così, perché insomma sono una pensionata. Mi hanno proposto questa assicurazione, l'impiegata prima era sempre quella, adesso continuano a cambiare, l'ultima non mi dà fiducia, ma lasciamo perdere. Questa assicurazione, dicendo che, visto che come andavano le cose, conveniva, avrei avuto un interesse più alto. Ai primi dell'anno, verso Natale... Angela, sto così, chiudendo, quindi lei la vorrebbe riscattare l'assicurazione, sì, le dicono di no. Io avevo bisogno di soldi e credevo di poterli riavere. Ho telefonato, mi hanno detto assolutamente no. Cioè, se io volevo il mio investimento, che era di 20.000 euro, e tutto quello che mi interessava, quello che avevo, dovevo pagare 200 euro. Allora, Angela, sì, per il funzionamento dei caricamenti, forse come abbiamo detto poco fa, Angela, allora, guardi, adesso noi prendiamo nota del suo caso e lo mandiamo ad Alessandro Scarfola, amministratore delegato di San Paolo Assicura, che è sempre molto attento ai nostri casi, e sono certa che andrà ad indagare che cosa è successo sulla sua polizza. Pierpaolo da Pavia, la domanda di stamattina, che cos'è il caricamento telegrafico? Buongiorno, per caricamento si intende secondo me il cumulo delle spese che la società che gestisce di gestione addebita al cliente. Quindi la società di gestione la possiamo accettare così e così, però insomma glielo regaliamo lo stesso, perché è andato a studiare. Ma apriti il microfono, ma mi devo assicurare. Hai ragione, perché ero troppo attenta. Rende bene l'idea, dai. Sì, Pierpaolo, glielo regaliamo lo stesso, un libro, grazie. Insomma, il caricamento, Federica, tu come lo definiresti? Gli oneri che gravano sul premio, quindi versato 100, se la compagnia trattiene il 3%, quei tre uretti che si tiene la compagnia. Studiate bene anche le assicurazioni come strumento di investimento, perché qua è un'altra piccola giungla, altro che rami, uno, due, tre. Sempre molto attenti, e sapete che noi stiamo facendo questa iniziativa di educazione finanziaria. Grazie, noi torniamo domani, buona giornata a tutti.